Design e architettura che giocano con la luce, città rese molto più gradevoli da illuminazioni scintillanti, progetti moderni belli da vedere, ma attenzione, perché la luce, spesso usata solo per bellezza, è un consumo che il mondo deve combattere o perlomeno ridurre. Ecco la sfida di progettisti e architetti stimolati da una necessità sempre più forte di limitare l'uso delle illuminazioni. Al MADE Expo di Milano l'architetto Riccardo Bofill è arrivato da Barcellona. La ricetta per risparmiare luce, secondo Bofill, risiede nelle condizioni dettate dalla cultura di ogni luogo. Perché l'architettura che si bisogna fare nel Sahara non è la stessa che bisogna fare nel Polo, no? L'architettura dell'Asia non è la stessa che l'architettura dell'Europa. Facendo un'architettura che sia adattata alle condizioni locali, no? Le condizioni locali, che sono le condizioni della luce locale, le condizioni dell'energia locale. Qualcuno paragona l'architetto al direttore d'orchestra e l'orchestra alle aziende. Dunque, chi produce fa la sua parte, esponendo fra gli stand nuove forme di illuminazione improntate al risparmio. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore.